Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sto per presentarvi un software che vi permetterà di trasformare il vostro normale cellulare in un cellulare spia, in uno spy phone. Presentazione pratica sull'utilizzo del sistema di radiolocalizzazione satellitare in tempo reale. Avete mai pensato di avere un unico oggetto che vi permetta di controllare i vostri beni o di controllare per esempio i vostri familiari, i vostri cari, sapere dove vanno e con chi escono? Con visualizzazione su qualsiasi tipo di cellulare Nokia o Palmare munito di apposita cartografia Bluetooth. Oppure semplicemente che vi permetta di monitorare la vita di tutti i giorni. Bene, sembra una cosa un po' irreale, ma la nostra azienda ha creato un software che vi permette di monitorare, controllare, avere apprensione, provare affetto per delle persone, quindi giustamente preoccuparsi della loro incolumità, degli incontri che potrebbero fare. Oppure controllare, perché in realtà si vuol sapere quello che appartiene alla vita privata, alla vita segreta di persone da noi legate affettivamente. È un crinale molto pericoloso questo, ma è inutile, dobbiamo fare i conti col fatto che ognuno di noi ormai porta incorporata una tecnologia che fa parte della nostra struttura fisica, della nostra emotività. Siamo grandissimi consumatori di tecnologia, consumer, siamo i più grandi possessori di smartphone, di tablet che possono esistere all'universo, quindi ognuno di noi comunque ha addosso qualcosa che è utilissimo, interessantissimo, divertente, ci aiuta a relazionarci, ci aiuta a catturare brandelli di realtà, a trasferirli nei nostri social network, a mostrare al mondo quello che vogliamo che del mondo, che il mondo di noi sappia, ogni nostra emozione, ogni nostro colpo d'occhio, ogni nostro palpito, ma allo stesso tempo abbiamo un oggetto sufficientemente insidioso perché rivela ogni istante quella che è la nostra posizione, o potrebbe rivelarlo, o potrebbe dare di noi delle informazioni che noi non sempre ci teniamo che siano rese pubbliche. Beh, oggi questo è l'oggetto della riflessione. A fronte di alcuni dati, di alcune ricerche che alla fine vediamo che per dovere familiare, per spirito di missione paterna o per legittimo sospetto, una parte precipua degli italiani comincia a usare queste tecnologie con un uso, diciamo, abbastanza esteso rispetto alla loro destinazione d'uso primaria. Il 12% dei consumatori di telefoni con possibilità di fornire informazioni e geolocalizzare il possessore di questo telefono li usa per scoprire marachelle coniugali o perlomeno per dare corpo a propri sospetti. Molti altri li usano in realtà le applicazioni divertentissime che si possono scaricare gratuitamente per avere un'idea di dove vadano i propri figli quando escono la sera. È lecito, è giusto, fino a che punto si può fare, fino a che punto la tecnologia ormai si sovrappone alla nostra capacità e al nostro desiderio di controllarla. 800 24 00 24. Questa volta però la situazione si è ribaltata, perché Andrea si è fatta male durante un allenamento di Thai Box e adesso è lei ad avere i sospetti. Ho bisogno del tuo aiuto. Ciao Andrea, dimmi tutto. Credo che il mio fidanzato mi sta mettendo le corna e non voglio avere dubbi. Cosa possiamo fare? Non ti preoccupare, se riesci a procurare il tuo cellulare riusciamo a controllarlo e a spiarlo. Certo, tanto glielo prendo appena si mette davanti alla PlayStation, come al solito. Andrea, il cellulare, adesso lo sistemiamo. Cosa stai combinando? Scaricherò un programma da internet, lo invierò via Bluetooth al cellulare in modo da poterlo spiare. Farlo è facilissimo, ci vogliono pochissimi secondi. In questo modo potrai leggere gli SMS che ha inviato, che ha ricevuto, le chiamate, spiarlo. Nulla che appartenga alla fantasia, nulla che sembri impossibile alla portata di tutti. Abbiamo preso un video da YouTube, ma a fornire questo servizio un'infinità di persone. Avverto naturalmente che è qualcosa dal punto di vista legale non accettabile, dal punto di vista etico discutibile, ma anche su questo fatto che sia discutibile c'è molto appunto da discutere. Bisogna vedere se è giusto che un sospetto poi trovi corpo. Di fronte alla possibilità tecnologica di farlo, nessuno si tira indietro. Quanti di voi hanno pensato o usano gli strumenti che abbiamo per comunicare anche per tenere sott'occhio le persone a loro care? Fosse un figlio che esce la sera con un'applicazione che ci dimostra che in realtà faccia quel percorso preciso fra casa, pub e ritorno, oppure in maniera meno trasparente, meno esplicita, meno accettabile da vari punti di vista, quanti di voi hanno pensato di affidare alla tecnologia la tenuta del proprio rapporto o la sicurezza che il proprio rapporto tiene? Andrea Rossetti, buongiorno. Ciao Gianluca. Andrea Rossetti, professore di filosofia e diritto all'Università Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Spesso ci sentiamo. Questa mattina, Andrea, ci interroghiamo ancora una volta, anche se il problema è stato più volte discusso e approfondito da noi, sull'idea che la tecnologia avanza, la tecnologia ci mostra sempre delle possibilità più fantastiche, più divertenti, più allettanti. Tutti ormai abbiamo nel nostro telefonino un'infinità di applicazioni che ci permettono da individuare gli autovelox per strada a capire quanti ci possono informare del traffico nella nostra città, a avere informazioni sui treni, sulle strade, sui pedaggi, sulle metropolitane, sui mezzi pubblici, anche a volte non richiesti. Qual è il punto critico rispetto a questo avanzare della tecnologia? Qui il punto è il punto che la tecnologia è così facile da usare che spesso ci fa valicare i limiti invece che il diritto, la tradizione giuridica occidentale ha posto da sempre. Sempre più spesso si sentono pubblicità, ma si sentono anche persone che cercano in qualche modo di intercettare illegalmente, che so, il cellulare del compagno, della compagna, perché in questo caso molto più che la legge sul trattamento dei dati personali, quello che è in gioco è proprio il problema dell'intercettazione. Tutte le intercettazioni, la maggior parte degli usi dei programmi che vengono pubblicizzati sono illegittime, non tanto sotto il profilo della privacy quanto proprio sotto il profilo delle intercettazioni. Non ci possono essere intercettazioni che non siano in qualche modo autorizzate dall'autorità giudiziaria, insomma. Invece questi programmini permettono direttamente o indirettamente proprio di assumere informazioni che rientrano nella sfera personale dell'individuo, che è la privacy, appunto, ma paradossalmente quasi non sono aspetti che sono legati alla legge sulla privacy, perché la legge sulla privacy entra in gioco nel momento in cui alcuni dati personali vengono resi pubblici. Qui invece molto spesso i dati personali non vengono resi pubblici, i dati raccolti non vengono resi pubblici, ma vengono usati per altri fini, che sono nella causa di un divorzio, per ottenere chiarimenti, per monitorare appunto le abitudini del mio compagno o della mia compagna. Bisogna stare attenti perché i profili di illiceità sono veramente molti e pericolosi, anche se fino adesso bisogna dire in Italia, almeno per quello che ne so io, non c'è davanti a nessun giudice italiano un problema scaturito dall'uso illegittimo di questi strumenti. Cominciamo ad analizzare nelle forme più semplici e magari apparentemente innocue. Ognuno di noi molte volte, per gioco, per divertimento innanzitutto, nel proprio social network dà l'indicazione del luogo da cui è stata fatta una foto o del luogo in cui si sposta in quel momento, o al ristorante e tutto. Già questa è una prima segnalazione, comunque una geolocalizzazione volontaria. Qual è il passo però successivo in cui ci prende la mano la tecnologia e non ci rendiamo conto di mettere in circolo informazioni importanti, o perlomeno non sempre delle cui non sempre abbiamo perfetta cognizione? Ma io ho scoperto ieri, forse per popolarità, insomma, questo uso di Facebook che indica tutti i posti in cui io sono stato. Quindi è vero che io mi geolocalizzo volontariamente, no? Perché sui social network io rendo volontariamente pubblici dei miei dati, quindi uno potrebbe dire, vabbè, quindi responsabilità tua ovviamente, no? Tu hai deciso di rendere pubblici questi dati, poi l'uso che se ne fa. Però è interessante vedere, no, che c'è una mappa, c'è il modo su Facebook di generare una mappa di tutti i posti in cui voi siete stati, ti sei trovato con l'ora in cui eri, quell'ora in cui eri in quel luogo, il giorno, l'ora in cui eri in quel luogo, e in questo modo si può in qualche modo mappare la tua attività. Ma peraltro io ho scoperto dall'inizio, da quando uso Facebook in pratica, quindi dal 2007, quindi mi sono visto questa mappa di luoghi io ho visitato dal 2007, nei quali ho taggato qualche foto, mi sono registrato, ed è l'ho trovato un po' inquietante, perché io fino appunto a pochi giorni fa non sapevo di questa possibilità di Facebook. Anche qui molto spesso ci dobbiamo rendere conto che le informazioni che noi rendiamo disponibili volontariamente possono essere usate in modi che noi non immaginiamo, per effettivamente a volte monitorare in maniera molto invasiva la nostra esistenza, le nostre abitudini anche. Di solito funziona così: un upgrade di un social network non viene mai così palesemente annunciato. Devi andarti a cercare, scartabellare ed eliminare quella funzione. Se non la elimini, c'è. Esatto. Dal giorno in cui ti sei iscritto al social network, comunque tu sei mappabile. La tua mappa è stampabile, la tua mappa è ricevibile da chiunque. non è detto che nessuno di noi abbia altarini da nascondere, ma sapere che dal 2007 a oggi, comunque sia, c'è una traccia in tutti i luoghi in cui sei passato, di cui comunque potremmo essere chiamati a rispondere, non è certo particolarmente interessante e divertente. 800 24 0024, vi siete mai resi conto di questa attenzione da avere? Quanti di voi in realtà hanno usato un sistema molto semplice, senza ricorrere a personaggi particolarmente e professionalmente dedicati all'intercettazione, allo spionaggio e via dicendo, a delle semplici applicazioni per dare un'occhiata nella vita di altre persone, fosse anche un figlio, fosse anche una persona di cui noi abbiamo pieno diritto di sapere gli spostamenti? 800 24 0024. Luca Figini, buongiorno a lei. Buongiorno. È un giornalista, Luca Figini, esperto, e scrive nella rivista cellularemagazine.it, quindi diciamo sei un po' la voce tecnologica. Dal tuo punto di vista, dal pubblico che conosci, dai tuoi lettori, le persone che ti seguono, ti risulta che in realtà queste applicazioni che partono come un gioco poi hanno un'applicazione quotidiana abbastanza pesante, almeno nel nostro paese? Ma allora, ti dico, intanto magari fossero un gioco, in realtà sono proprio applicazioni studiate per poter rilevare la posizione del telefonino, quindi nascono da un principio nobile, che è quello magari di farti ritrovare il telefonino, o con applicazioni che si chiamano family tracker in inglese, quindi per tracciare i componenti della famiglia, servono per controllare, quindi non sono veri e propri giochi, ma sono funzioni studiate appositamente per poter vedere la persona che porta il telefonino, dove va e cosa sta facendo. Vado oltre, addirittura siamo noi stessi, come dicevo prima, su Facebook, ma non solo, ma anche su Twitter e con Foursquare, che diciamo volontariamente dove siamo stati e dove andiamo. Quindi non fa neanche più così tanto scalpore sapere che con un'applicazione o con una funzione nativa del telefonino, perché per esempio iPhone, Android e Windows Phone hanno le funzioni native che permettono di loggare, quindi di vedere tutte le posizioni che stai compiendo con il telefonino, dove ti trovi, e quindi di vedere in remoto da un altro telefonino o dal browser. Lo sai cos'è però, Luca? Nessuno forse considera fino in fondo, e vale la pena di dirlo, che in realtà queste funzioni, sia native sia le applicazioni, che a volte sono gratuite, a volte però costano sempre pochi soldi, non sono mai spese enormi scaricarsi un'app, in realtà possono sembrare innocue se noi ci piace di far sapere che abbiamo mangiato la pizza in quel tal ristorante o siamo andati in quella tale spiaggia, ma il fatto che poi si possa ricostruire una mappa, un diario, un log totale di tutti i nostri spostamenti è qualcosa su cui forse vale la pena di riflettere. Assolutamente vero, ti faccio un esempio, per esempio l'applicazione Trova il mio telefono, che è nativa di iPhone, è stata studiata originariamente per permettere all'utente di vedere dove l'ha perso o te l'hanno rubato. Idem vale per le suite di sicurezza per Android, come quella di AVG, come Lookout, come tante altre, che fanno la stessa funzione, addirittura con un SMS restituiscono le coordinate. Il passaggio successivo è quello di abilitare, per esempio, trovo il mio telefono su tutti gli iPhone, su tutti gli Android o su tutti gli smartphone della famiglia, e a quel punto guardare comodamente dal browser del PC che cosa hanno fatto. A te risulta che le aziende, nei telefoni aziendali che danno ai loro dipendenti, ai loro funzionari, possano attivare questo tipo di applicazione? Ti dirò di più, l'applicazione va disattivata. Perché quando accendi il telefonino e lo configuri, sia Windows Phone sia iPhone l'hanno attivata di default. Quindi va disattivata a mano la funzione. Quindi sì, in azienda potrebbero addirittura, se il dipendente viene disattivata a mano, verificare costantemente la posizione. Sentiamo Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. A mio parere in Italia c'è un abuso continuo di controllo da parte delle aziende per il fattore del trasporto. Non siamo poco, io penso che siamo moltissimi gli autisti. Lei cosa fa? Lei è autista di un'azienda? Io sono autista di autotrasporti, mezzi pesanti. Tutti siamo controllati in un modo o nell'altro continuamente, anche quando siamo carichi, quando siamo a trattore. Vabbè, con il camion non è che potete fare tante uscite dal percorso, Sì, però non c'è nessuna via di fuga. Cioè, se tu ti fermi per qualsiasi motivo tuo personale, tu praticamente il datore di lavoro sa perché ti sei fermato, ti domanda ma come mai sei fermo, secondo me non è giusto. Ma con cosa la controlla? La controlla con il vostro sistema? Esiste sono dei aggeggini che si mettono, si nascondono e tu neanche lo sai. Sì. Senza che voi lo sappiate? Senza che lo sappiamo, sì. Ma vi faccio un esempio. La lista si chiama YNET, se lei si connetta su YNET vede come funziona. Scusami, mi spieghi bene perché è una cosa interessante questa. Allora, praticamente sono gli aggeggini che si nascondono sul mezzo e le aziende ti controllano. Sì, sono dei localizzatori, è come fosse un GPS. Nessuno ti è venuto a chiedere il permesso, attenzione, nessuno. Ma come fate a sapere? L'avete visti? Vi risulta? Bisogna essere stupidi, perché come fa lui a sempre a sapere dove sei? O è un profeta oppure ci deve essere un mezzo. Quindi molte volte diciamo il vostro datore di lavoro vi chiama e dice cosa fai fermo a quella piazzuola. Tutte le aziende sono così, tutte, perché parlandoci tra colleghi tutti ci siamo accorti di questa cosa, tutti si accorsi. Ma nessuno di voi ha mai provato di dire come fate a sapere? Sempre negato, attenzione. E questo vi risulta. Beh, sentiamo se altre persone, autotrasportatori, ma altri dipendenti di altre aziende, hanno avuto questa impressione che esistano questi apparecchi insidiosi. Io penso che non si possano mettere, poi sentiremo persone competenti, senza il consenso comunque della persona in cui viene installato, e ce lo segnali, 800240024. Andrea Rossetti, cosa ne dici di questa ultima telefonata? Ma la trovo inquietante, insomma, nel senso che io credo che in questi casi si applichi ancora l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che non permette esplicitamente il controllo a distanza del lavoratore. Quindi se questi aggeggi ci sono installati, mi sembra, illegalmente. Sicuramente ci sono dei sistemi legali per controllare quanta strada uno fa, perché ad esempio le automobili moderne, ma anche i camion immagino, sono completamente computerizzate, quindi io posso tenere sotto controllo che so il consumo di benzina e con il segnale GPS, una serie di segnali, in generale monitorare l'attività generica della giornata. Monitorare puntualmente l'attività di uno, appunto, io credo che sia un'attività illegale, dimostrata mi pare dal fatto che le aziende, almeno quello che dice quel signore che ha telefonato prima, non neghino di aver installato questi aggeggini. Sì, lui in effetti mi ha dato un nome, YNET, sto guardando sul sito, in effetti è un'azienda leader per localizzatori, in effetti esiste. Per auto esistono, per auto e camion esistono già da almeno una decina d'anni. Mi ricordo che un mio studente quasi una decina d'anni fa fece proprio una tesi su questi aggeggi che all'epoca stavano veramente solo iniziando a diffondersi, ma erano piccolissimi e anche relativamente poco costosi. Controlla i tuoi veicoli in ogni momento grazie ai nostri dispositivi di localizzazione. Coordinamento dei trasporti, controllo degli orari di carico e scarico, controllo dei costi, aiuto all'adempimento degli obblighi. Io naturalmente, se c'è un rapporto di accordo fra lavoratore e azienda, penso che non ci siano problemi. Il problema è che se vengono messi senza che il lavoratore lo sappia, questo non lo so dire. Comunque sono dei sistemi per controllo dei mezzi in movimento e quindi per questo vengono usati. Simone, buongiorno. Simone? Caduto Simone. Allora sentiamo Luca Figini. Luca Figini, rispetto alla telefonata dell'autotrasportatore, puoi darmi qualche altro ragguaglio di tipo tecnico? Sì, guarda, ti dico che vado addirittura oltre il YNET, anche in questo caso nel senso che i più recenti navigatori satellitari, quindi quelli personali, PND, quelli veicolari, addirittura quelli, i modelli per autotrasporti, hanno già incluso queste funzioni. Per cui per esempio i più grandi marchi come TomTom, Garmin, eccetera, hanno modelli appositamente studiati per gli autotrasportatori che sono costantemente in collegamento con la centrale, che di solito è non il padroncino, ma magari l'ente che organizza i trasporti. Lo scopo principale è non solo quello di verificare l'itinerario e quindi anche a livello di sicurezza dell'autotrasportatore, ma soprattutto di rendere efficiente la logistica, quindi sapendo dove sono i camion e magari organizzando i ritiri. Quindi sì, esistono e addirittura sono inclusi nei navigatori satellitari. Rimane il problema che abbiamo sollevato con Rossetti. Va tutto bene finché fa parte del quotidiano rapporto professionale fra dipendente e azienda. Se è un sistema insidioso per fare la telefonata, dire cosa stai facendo, come ci ha detto l'autotrasportatore, si entra in un altro ambito. Simone, l'abbiamo recuperato. Buongiorno Simone. Buongiorno. Niente, il mio intervento era per dire che ormai di questi controlli qua non penso che nessuno riuscirà mai più a bloccarli, diciamo. Ma diciamo che la tecnologia è così individuale e invasiva, è difficile, perché il telefono lo abbiamo tutti addosso ormai. Esatto, e la tecnologia andando sempre avanti, Diciamo è l'uso che uno se ne fa, nel senso che se un fidanzato scopre che la fidanzata ha un appuntamento con un suo presunto futuro amante, per dire, se è capace di controllarla e viene a scoprire questa cosa, è l'uso che ne fa dopo di dire non arrabbiarti, ma piuttosto cercare di trovare una soluzione, perché invece che vada, che la fidanzata vada con l'amante, sì, diciamo che un escamotage per fargli una sorpresa talmente fuori che rimanga con te. No, insomma, mi fa sorridere che alla fine noi ci stiamo arrovellando per riuscire a capire quanto la tecnologia, che ci fornisce dei grandi servizi, poi in realtà vada almeno controllato, almeno avere consapevolezza delle estensioni d'uso di questa tecnologia. Poi alla fine facciamo sempre il solito esempio, la fidanzata infedele, sempre la fidanzata infedele da rintracciare. Massimo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Dunque, volevo dire che io ho semi ritrovato un telefonino proprio grazie a uno di questi software. Diciamo, è successo 6-7 anni fa, avevo installato uno. Quindi era una cosa abbastanza arcaica, 7 anni fa. Sì, era ancora su Symbian. Una cosa vecchia, infatti, sì. C'era questo software che era fatto in modo, non era ancora basato su GPS, era fatto in modo per cui se qualcuno ti rubava il telefonino e sostituiva la SIM, automaticamente il telefonino mandava un SMS a un altro numero che tu avevi dicendo qual era il nuovo numero. Sì, era un antifurto degli arcaici telefonini. Associato al telefonino. Sì. In effetti, dopo 5 minuti avevo il numero di telefono di questo signore che mi aveva rubato il telefonino. E quindi sono andato alla polizia postale con tutti i tabulati, erano molto ammirati, peraltro quasi mi assumevano perché ancora non conoscevano questo genere di software. Sì, però con quello che stiamo dicendo c'entra un pochino poco, perché al di là dell'uso di recupero di un telefonino rubato non aveva la funzione di controllare nessuno, bisognava prendere il telefono, togliere la SIM e mandava l'SMS. Comunque l'idea che comunque ci si stava già lavorando 7 anni fa è interessante. Già mi stanno arrivando un'infinità di SMS che consigliano ai camionisti dei sistemi di jamming per inibire i messaggi GPS inviati, quindi ad ogni misura di controllo esiste una contromisura. Luca Figini, giornalista alla rivista cellularemagazine.it, ti risulta che esistono anche i sistemi di annullamento del controllo elettronico? Sì, esistono, ma è ancora più semplice rispetto a usare un jamming. Basta semplicemente spegnere il dispositivo, disattivare l'antenna GPS o la connessione. Faccio un esempio sul telefonino: se non si vuole subire alcun tipo di rischio, basta spegnere il GPS, disattivare la connessione dati, che poi è quella che serve per trasferire le coordinate geografiche, e come terza fase magari controllare quali software sono attivi, quali funzioni sono attive, e quindi andarle a eliminare. Senti, quanto sono diffuse in realtà queste app di cui stiamo parlando, che permettono appunto la localizzazione? Quanto costano? Chi ti risulta che le scarichi, le usi? Quali sono gli usi che vengono fatti? Allora, ti do un dato di Berg Insight che ha misurato la propensione all'uso nel Nord America e in Europa. Sono dati purtroppo aggregati in questo modo, non ci sono dati localizzati italiani, però ti do un dato poi sull'Italia. Dunque, secondo questo Berg Insight, nei prossimi 5 anni l'utilizzo di questi sistemi di, diciamo, family locator, come li chiamano loro, quindi di gestione della posizione della famiglia, dei componenti della famiglia, passeranno da... È un eufemismo, perché tu ci metti la famiglia, nella famiglia ci rientra tutto. Esatto, famiglia, cioè, e amici. Nessuno vuole controllare la zia o il pronipote, è chiaro. Io vado su massimi sistemi, però sì, assolutamente, per controllare, passando da 16 milioni a 70 milioni in 5 anni, quindi è un bel incremento, anche nella diffusione. Sì, tanti. Però in Italia, per esempio, nelle top 10 dei tre application store più diffusi, che sono quello di Apple, quello di Android e quello di Windows Phone, non sono mai tra le prime 100. O meglio, ci sono fra le prime 100 le suite di sicurezza, come quella di AVG, di Lookout, di F-Secure, che tu hai già citato, di Kaspersky, che hanno al loro interno questa funzione di antifurto, quindi che ti permette di verificare dove hai finito il telefonino. Quindi tu cosa ne deduci? Che gli italiani ancora non sono abbastanza attrezzati per usare con malizia l'applicazione, preferiscono sistemi più tradizionali? Sì, secondo me addirittura quasi quasi non si fidano, nel senso che probabilmente capiscono che possono fare qualcosa, però in realtà fino in fondo non si fidano, anche perché volendo, riguardo ai prezzi, si trovano suite molto belle, fatte bene, professionali, addirittura che costano dai 3 euro fino a Ubisafe, che è una piattaforma compatibile con tutti i telefonini, che fa tantissime cose e costa 99 euro all'anno, ma esistono anche software gratuiti che ti permettono di andare oltre queste soluzioni a pagamento, cioè quindi non solo di tracciare la posizione del telefono e della persona che lo ha, ma anche di leggere in remoto gli sms su Android. Secondo me, alla fine lo vedo anche dal polso delle persone che telefonano, c'è una grande diffidenza nello scoprirsi. Se io chiamassi la radio e dicessi che voglio usare questa applicazione, magari richiamerei su di me un'attenzione esagerata. Se io dicessi che mai la userei, magari dimostrerei di avere la coda di paglia. Quindi vedo un pubblico un po' reticente nell'aprirsi di fronte a questo problema. Giuseppe Busia, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Busia è il segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali. Lo abbiamo fatto stare in ascolto finora perché volevamo che avesse il polso un po' di questa trasmissione e adesso lo chiamiamo in causa. Rispetto a quello che abbiamo detto finora, ha una sua personale valutazione da fare proprio nella sua posizione di ufficio del Garante, diciamo. Sì, emerge quello che emerge anche dalle segnalazioni che noi riceviamo, dove c'è una consapevolezza crescente, fortunatamente ed è uno dei nostri obiettivi, del fatto che portare in tasca un videofonino, un telefonino, uno smartphone comporta non solo alcuni servizi e comodità delle quali tutti usufruiamo, ma anche una serie di conseguenze sul controllo che o l'operatore che ci fornisce il servizio di comunicazione, ovvero chi ci fornisce le singole app, i singoli programmini, i servizi in senso generale che noi utilizziamo, ha la possibilità di effettuare. Quindi c'è un controllo sulle nostre attività, sulla nostra posizione, su quello che facciamo, e quindi una necessità di grande, crescente attenzione nel scegliere le applicazioni che proteggono in qualche modo la nostra riservatezza. Tutti i casi che sono stati citati, da quelli più preoccupanti come il camionista che effettivamente denunciava un caso di controllo a distanza dei lavoratori, ragionevolmente illegittimo, ricordo brevemente quali sono le regole in questo caso, vige, come ricordava già qualcuno, l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede un divieto dell'uso di apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori, e l'unico caso, quando vi siano esigenze organizzative o produttive o di sicurezza dei lavoratori e quindi sia richiesta una qualche forma di utilizzo di apparecchiature che consentono anche, perché la finalità non è mai controllo dei lavoratori a distanza, questa è un qualcosa di vietato appunto dal 1970, questo è consentito, ma ovviamente dopo che ci sia un'informativa dettagliata a tutti i lavoratori e dopo che ci sia il consenso, se ci deve essere un accordo con le rappresentanze sindacali, oppure se questo accordo non si trova, l'ispettorato del lavoro può intervenire per giudicare l'effettiva necessità, l'effettiva utilità, ripeto, ai fini di sicurezza del lavoro, misure organizzative e controllo delle esigenze produttive, ma non di controllo a volte anche il controllo, dottor Busia, del mezzo, il valore del mezzo. Un camion a pieno carico è un valore per l'azienda, è giusto che qualcuno abbia sott'occhio quel carico nei suoi vari spostamenti, consapevolmente, nella piena consapevolezza dell'autista, naturalmente. Certo, ci sono delle modalità con cui questo può avvenire. La cosa che bisogna scongiurare è che sia un modo per spiare il lavoratore attraverso apparecchiature. Questo è un qualcosa che diciamo si può fare. Il controllo sull'operato dei lavoratori avviene con altre forme, ma non attraverso questo controllo occulto. Ecco, nell'ambito invece più strettamente familiare, dove non esiste un contratto di lavoro e un sindacato, il controllo dei genitori sui figli. Questo è un problema notevole del quale ci si sta occupando, perché ogni volta che il legislatore entra nelle mura familiari, in questo campo come in altri, deve entrare in punta di piedi. In generale, quello che anche a livello internazionale, perché sempre di più, una cosa importante da dire è che sempre di più i garanti nazionali si coordinano fra loro, a livello europeo interloquiscono con questi giganti del web come Facebook, come Google, in modo coordinato. Questo li rende più forti e rende la possibilità di garantire almeno nell'area europea, nell'area comunitaria, una disciplina uniforme. Per i minori alcuni principi sono stati individuati, alcuni principi anche a livello internazionale, che prevedono che anche i minori sostanzialmente, questo riguarda un po' tutti i campi della difficile mestiere di genitori, non bisogna considerare i minori come un oggetto da controllare, quindi gli metto il guinzaglio elettronico. Non è un cane che ha il microchip. Esattamente. E quindi il consiglio che si dà è quello di, compatibilmente, perché un bambino di pochi anni è diverso dal ragazzo adolescente che si avvicina alla maggiore età. Diciamo un 17enne che viene controllato dal genitore con un'applicazione, dovrebbe essere informato di questa cosa. Dovrebbe essere informato e dovrebbe essere in qualche modo reso partecipe della decisione e delle modalità con cui questo avviene. Questo, diciamo, travalica anche il consiglio e la regola relativa alla privacy e ha a che fare anche con le modalità di educazione corretta del minore. Il fine del genitore non è appunto tenere un minore al guinzaglio, ma aiutarlo a crescere. 800 24 00 24, l'attenzione si è alzata soprattutto nel profilo Facebook Meldog Radio 24, dove vedo molti amici che stanno partecipando. Uno di questi, Nicola Frega, che è un professore, un informatico dell'Università di Calabria, avverte i lettori e gli ascoltatori che, attenzione, ogni foto fatta con lo smartphone contiene in sé tutti i dati che permette di localizzare dove è stata fatta la foto. Qualunque foto voi scattate con il vostro telefonino, poi la mettete in rete, comunque questa foto racconta dove avete fatto questa foto, quindi state molto attenti. Se avete ragioni, stare attenti, se no non vi preoccupate. Stefano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, io volevo dire questo: io sono un buon utilizzatore di Latitude, quello di Google. Sì, è stato, diciamo, la prima cosa che ha cominciato a farci sudare freddo, però... Esatto. Io ho notato questo, che molte persone chiedono l'amicizia, me la danno 2 giorni e poi la tolgono. Ecco. Grazie, ci credo. e volevo dire che magari è un po', diciamo così, secondo me è buono il fatto che uno poi è consapevole, una volta che capisce questi meccanismi, è consapevole, perciò secondo me è un passo in avanti, perché comunque queste cose ce le abbiamo bene o male tutti. Però una volta che li vede, come questo sistema di Google che permette appunto di dare la localizzazione sulle mappe di ogni persona, ci sono dei momenti in cui uno dice: ma senti, ma perché devo sempre dire a una serie di persone dove sto in ogni momento? E uno lo disattiva. Però sentiamo Mario. Mario, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io ho 2 figlie. Quanti anni? 19 e 15. Quasi in età da marito. E però? Non esageriamo. Qua 19, sì. E niente, praticamente io cercavo un programmino, che un'applicazione che potesse, nel caso in cui smarrissero il telefonino, l'iPhone, oppure questo, ritrovarlo. E ho trovato un'applicazione che poi mi sono accorto, in realtà... Guarda caso... No, ma veramente, in buona fede, ha un sacco di optional, diciamo così, che sono fantasmagorici, diciamo così. Cioè lei la sera sì. Si mette lì e segue il tracciato delle figlie, lo dica la verità. Ma no, ora quello no, però... Beh, più o meno. Si possono leggere i messaggini, si possono sentire le conversazioni, Si può fare una foto lì per lì, è una roba allucinante. Beh, lei ha detto alle sue figliole che... Io gli ho fatto presente il fatto, non... Sono un padre moderno, quindi non vado a sfrugliare, diciamo così. Però volendo c'è questa possibilità. In teoria, che poi non era richiesta, perché io volevo solamente qualcosa e mi consentisse di eventualmente localizzare questo. E quanto ha pagato per questo? Ma centesimi, mi sembra un euro. Comunque lei questa console che apre sulla vita delle proprie figliole lo fa avvertendo le figlie: guarda che adesso do un'occhiata a quello che stai facendo, oppure ogni tanto è un passatempo? Molto, molto sinteticamente, quando uscite vi connettete ad internet, perché altrimenti non è possibile fare questo. E il papà da lontano vede cosa fate? In teoria non mi interessa, perché non mi interessa andare a sfrugliare, come dicevo, nulla. Quindi quando rientrano tutto a posto, si spenge questo affare o non c'è bisogno di accenderlo. Ma anche una 19 anni che ormai è adulta e avrebbe diritto di fare quello che vuole, si presta a questa cosa? Fa quello che vuole sicuramente, fa sicuramente quello che vuole. E io lo uso solamente in caso di bisogno per ritrovare. Va bene, interessante. Questo, diciamo, è una fattispecie. Dottor Giuseppe Busia, segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali. Ha visto, abbiamo avuto subito un esempio di quello che lei stava dicendo, praticamente. Sì, la regola generale, al di là appunto nella famiglia, il consenso e la consapevolezza sono importanti. In linea generale, un diritto che ciascuno deve avere, anche quando dopo essere informato ha dato il proprio consenso, è quello di interrompere anche temporaneamente la geolocalizzazione. Cioè è un diritto riconosciuto a tutti quello di dire a un certo punto, anche se sia consentito, non mi localizzare più, voglio liberarmi di questo monitoraggio continuo. Allora, dottor Busia, prima aveva annunciato che lei ci avrebbe parlato di tutte le novità riguardo alla scuola e l'assistere alle lezioni, però visto ci sono pochi minuti, se lei ci dà la sua disponibilità vorremmo fare una trasmissione proprio dedicata a questo, gli strumenti elettronici personali individuali nell'attività didattica, quindi avremo più tempo e modo di approfondirlo ancora di più. Intanto la ringrazio per il suo contributo. Grazie a lei e a voi. Andrea Rossetti, vediamo come possiamo tirare le fila di quello che è stato detto finora, anche alla luce delle telefonate, di quello che ha detto appunto il segretario generale del Garante. Sì, qui oggi sembravano tutti molto preoccupati, però una recente indagine fatta negli Stati Uniti, per la verità, non in America, mostra che anche quando le persone sono consapevoli dei rischi che corrono quando condividono i loro dati personali, sono disposti a farlo, a volte in cambio delle sciocchezze. Cioè molti, in cambio della possibilità di scaricare liberamente una suoneria al telefono, sono disposti a farsi geolocalizzare o a dare più volte al giorno la propria posizione al gestore di questo servizio. Quindi allora, da una parte è sicuramente aumentata da parte delle persone la consapevolezza che questi strumenti possono effettivamente monitorare le nostre azioni. Dall'altra però sembra, soprattutto tra i più giovani, che si dia tutto sommato veramente poca importanza alla diffusione di questi dati. Vedremo nei prossimi anni cosa succederà. Forse nascerà un'industria che della privacy personale in qualche modo, un'industria che ci permetterà di avere strumenti da affiancare a quelli che già utilizziamo e che ci permettono di restare anonimi anche quando ce ne andiamo in giro con uno smartphone in tasca. Luca Figini, ricordo giornalista di Cellular Magazine, sei d'accordo con quello che dice Rossetti, che si aprirà un nuovo settore della tecnologia e delle applicazioni, quelle per crearsi delle aree riservate? Io voglio il mio luogo fuori dal mondo dove nessuno mi possa rintracciare. Sono d'accordo, se però iniziamo noi a dare valore alla nostra privacy, perché questo è il punto di partenza fondamentale, che noi i nostri dati personali li valutiamo pochissimo, pochi centesimi di euro. Credo che chiunque di noi vada in un centro commerciale e gli chiedono vuoi questo Mars, questo cioccolato in cambio se mi compili questo tuo modulo, questo questionario con i tuoi dati personali, composizione della tua famiglia, la tua data di nascita, credo che tutti noi compileremmo il modulo per avere il cioccolato. E questo vuol dire che non diamo valore al nostro dato personale, tanto più quando utilizziamo Foursquare, quando utilizziamo Facebook, quando usiamo Twitter, quando usiamo tutte queste funzioni. La nascita di un qualcosa che si contrapponga all'accumulo di dati personali da parte di alcuni, anzi di pochi enti come Google, come Facebook, come tanti altri, è una prospettiva che deve assolutamente avvenire, e comunque quantomeno ci deve essere un passaggio che queste grandi organizzazioni diano delle garanzie reali, cioè mostrino dei meccanismi reali per tutelarsi. Sarà un po' il bisogno, come oggi si va nelle spa per rilassarsi e purificarsi, di pulirificarsi un attimo di tutti i sistemi di controllo che ci sono messi addosso. Una battuta, Davide. Sì, Nicoletti, buongiorno. Senta, io volevo solo dire che stavo per acquistare questo geolocalizzatore, che non è solo per telefonini, ma era una cosa che si utilizza ad esempio all'interno dell'automobile, perché ti dà anche indicazioni quando uno supera una certa velocità, quando magari sì, i figli si allontanano da una distanza, diciamo, di sicurezza. Di sicurezza, quindi credo che forse in Italia abbiamo la paura di essere, come dire, geolocalizzati, dalle altre parti sono forse un pochino lei, più... Lei dice che se non c'è nessuna cattiva coscienza, nessun scheletro nell'armadio, in fondo la nostra privatezza può essere messa a disposizione di tutti. Anche questo è un punto di vista. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, a domani.